mentre lui ci guardava e noi lo guardavamo, io le ho augurato un buon compleanno. Lei mi ha baciato e poi ha citato la lettera di suo nonno Vincenzo. Perché ogni tanto, in mezzo al niente, spuntano piccole oasi di bellezza. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, quasi 7 minuti. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Le ricorrenze sono un modo per ricordarci che stiamo vivendo. Per fare un segno sul metro che misura la nostra vita e che ogni anno si chiude come un cerchio. Senza i compleanni, senza gli anniversari, tutte le giornate sarebbero uguali. Non ci sarebbe mai un prima e un dopo. Ci sarebbe solo una lunga sequenza di cose che si ripetono, tutto uguali. E allora noi facciamo così. Noi celebriamo le ricorrenze. Le festeggiamo, usciamo a cena, facciamo regali, portiamo fiori. Insomma, in un certo modo santifichiamo le feste. Poi però c'è qualcuno di noi, che decide di celebrarle a modo suo. Decide ad esempio che il giorno del suo compleanno andrà a piedi fino al monte più vicino, sempre, ogni anno, il giorno del suo compleanno. Oppure sceglie di accendere un cero per tutti gli anni, quel giorno lì, il giorno in cui è stato assunto al lavoro, che probabilmente ha senso visto che ha a che fare con il miracoloso. Poi c'è chi la vigilia di Natale parte per un viaggio, chi invece cucina sempre lo stesso piatto. C'è chi per celebrare una vittoria quel giorno si veste sempre con la maglia della propria squadra, chi invece ricorda una persona che non c'è più organizzando una festa, o una cena, o un concerto. Nei paesi scandinavi il solstizio d'estate viene festeggiato di più che il Capodanno. E ho letto che c'è un signore in Svezia che ogni anno, il 21 di giugno, rimane sul suo balcone a prendere il sole per tutto il tempo in cui il sole brilla, praticamente 20 ore. Ecco, forse è un po' eccessivo. Ma è una forma molto personale per festeggiare una ricorrenza. Se anche voi celebrate ogni anno una data particolare in un modo particolare, ecco, io sono qui. E il mio numero è quello lì. È 800240024 per telefonare in diretta oppure 349-238-6666 per mandare gli sms. C'è anche una mail che non diamo mai, che io sono qui @radio24.it, e c'è invece un profilo Facebook. C'è un nuovo iscritto al profilo Facebook che deve essere molto giovane e si è lamentato del fatto, ti sei accorto Tiziano, del fatto che lo ripeto tutti i giorni, però non mi ricordo come si chiama, però deve avere tipo 16 anni. Fatto è che lo scoprirai, ma dopo i 16-17 anni i riflessi si allentano, quindi semplicemente ogni giorno conviene ricordare che c'è un profilo che si chiama Matteo Caccia, io sono qui. Tu, già che lo sai, sei già iscritto e stai a posto così. Quel profilo lì però riceve messaggi tutti i giorni e oggi è successa la stessa cosa, proprio perché si parla di quei momenti in cui è successo qualcosa di particolare nella propria vita. Banalmente si è nati, oppure ci si è sposati, oppure ci si è fidanzati, si è perso o si è trovato qualcuno. Quei momenti lì è il caso semplicemente di ricordarli e di ricordarceli. E quindi ogni anno c'è una data che arriva a ricordarci che quello è un giorno importante. Per far sì che quel giorno importante sia ancora più importante, alcuni di noi decidono di fare una cosa che viene codificata come quella cosa del giorno importante. Vi faccio un esempio. Francesca, ogni anno per Natale preparo a mano circa 4 kg di baci di dama per genitori, suoceri, zii, figli, marito, 2 giorni interi di lavoro. Marco, ogni vigilia di Natale vado in una pasticceria di Sorrento a ritirare una deliziosa torta alla fragola che sanno fare solo lì. Emilio, noi siamo, forse è lui, forse è Emilio, ragazzo di 16 anni, non lo so. Comunque, noi siamo 5 in famiglia. Mia madre ad ogni onomastico si sveglia, fa la cioccolata calda, compra i biscotti Rigoli, non so cosa siano, da inzupparci dentro. La casa si riempie di questo profumo straordinario e ormai questa ricorrenza va avanti da prima che nascessi, quindi più di 20 anni. Tommaso, da quando ho 16 anni, con qualsiasi condizione meteo, alla vigilia di Natale si va in snowboard, è una ricorrenza molto personale a cui sono particolarmente affezionato. Insomma, se avete codificato un modo particolare per celebrare un momento, che sia un compleanno, che sia una cosa, diciamo, una festa comandata, ma non solo, 800240024 349 23 866666. Tra gli altri messaggi è arrivato uno di Fulvio che diciamo lui si è adeguato a un festeggiamento che però non era il caso di festeggiare. Quando avevo 17 anni mi piaceva una ragazza, mi aveva portato un regalo di compleanno qualche giorno prima del giorno esatto, pensava che il mio compleanno fosse il 1° di giugno invece che il 3. Io non volevo scalfire la sua gioia dicendo che aveva sbagliato giorno, e così nei 2 anni successivi in cui noi ci siamo frequentati io ricevevo gli auguri 2 giorni prima del mio compleanno. Questo ha anche a che fare col diciamo con l'appiattirsi di fronte all'altro sesso. Noi invece oggi abbiamo semplicemente modo di parlare di ricorrenze e di modi per festeggiarlo. Il tutto perché in questo fine settimana c'è stata una ricorrenza abbastanza particolare, è una ricorrenza che ho cercato di festeggiare sperando che lo diventi un modo particolare anche nei prossimi anni, ed è andata così. E così ieri era il compleanno di Nathalie. Noi non ne abbiamo parlato per tutto il fine settimana. Lei ha fatto finta di nulla, cioè di fatto non me l'ha proprio detto. Io c'ero arrivato da solo quando avevo letto la data della lettera, quella spedita a sua madre da suo nonno Vincenzo, che aveva spedito il giorno della sua nascita. Non so come mai, non mi era ancora capitato che ci dicessimo «E tu quando sei nata?» Che non so se sia strano, però un po' sì, perché fa parte del processo di conoscenza, no? A un certo punto chiedersi a vicenda la data di nascita, anche se non ha intenzione di festeggiarlo, anche se non credi negli oroscopi. Per un certo periodo di tempo nella mia vita io l'ho usata come una strategia per rimorchiare questa. Cioè, chiedevo la data di nascita e quando lei mi diceva quale data era, io guardavo con gli occhi stupiti dicendole che era incredibile, che anch'io ero nato quel giorno lì. Ecco, di solito la malcapitata mi guardava un po' stranita, un po' sospettosa, però a quel punto lì tutte le fantasie riguardo le cose in comune, tutte le cose che possono avere due persone che sono nate lo stesso giorno, erano già belle che partite. Comunque, venerdì sera sono tornato dalla radio, ho comprato un mazzo di fiori dal fiorista sotto casa. Sono salito, mi sono fatto una doccia, ho tirato fuori una bella camicia e me la sono stirata. Ho lucidato le scarpe, ho infilato un paio di pantaloni neri che sembrava un damerino e poi mi sono seduto sul divano, al buio, ad aspettare che Nathalie tornasse. Quando è entrata in casa e accesa la luce si è presa un colpo. Un colpo di quelli che i film dell'orrore di solito suscitano facendo apparire all'improvviso delle facce terrificanti a 5 cm dalla macchina da presa, oppure alzando inopinatamente il volume della musica. Insomma, ha fatto un urlo che quasi mi stavo offendendo. Poi, ansimante, mi ha chiesto cosa cavolo ci facessi al buio vestito come per un matrimonio con un mazzo di fiori in mano. Io le ho detto che la stavo aspettando perché era il suo compleanno. E lei ha fatto quell'espressione stupida di chi non ha rivelato di proposito qualcosa, ma quella cosa è stata scoperta comunque. Si è bevuto un bicchiere d'acqua per farsi passare il fiatone e poi, finalmente, mi ha sorriso. Le ho dato i fiori e l'ho baciata. Lei si è fatta una doccia e dopo 20 minuti eravamo pronti per uscire. L'ho portata in un ristorante lungo il Naviglio, un posto di quelli raffinati, però che non lo ostentano, soprattutto nel servizio e nelle porzioni che non sono mai striminzite. È un ristorante che ha una piccola terrazza fatta di vetro, che dà sul Naviglio. E se tu ti siedi in fondo, proprio vicino alla vetrata, l'ultimo pezzo di pavimento, anche quello è in vetro. E quindi tu sei seduto sul vetro con il Naviglio che scorre sotto di te. Ecco, per un attimo quando ci siamo seduti ho pensato di avere fatto una boiata. Perché avevo espressamente chiesto un tavolo in quella zona, però ora che mi ci trovavo mi sembrava di essere... Avete presente uno di quei barconi che a Sharm el Sheikh portano dai villaggi turistici portano tutti i turisti per far vedere le bellezze dei fondali? E di solito quando ci capiti sopra ti trovi sempre seduto a fianco ad un signore grasso e sudato, oppure a una famiglia con due figli, che hanno deciso di sfondare il cristallo saltandoci sopra. Ecco, un po' mi sono sentito così, però fortunatamente non è andata in quel modo. Primo perché non eravamo in Mar Rosso e soprattutto perché il cibo era buono e nessun bambino si è messo a saltare sul pavimento di vetro. Abbiamo mangiato un antipasto di fiori di zucca e acciughe, un risotto alle fragole e una spigola sotto sale che a me fa impazzire. E poi le ho detto che volevo portarle in un posto. Nel silenzio più profondo anche il battito del mondo si è fermato per capire dove sei. Ma dove sono io che guardo il mondo senza te? Ho pagato il conto e siamo usciti. L'aria era gelida. era piena di quell'umidità che solo Milano sa regalare nelle notti di gennaio, con un po' di foschia sopra i tetti delle case, che rende il cielo giallo. Siamo saliti in macchina, Natalie mi ha chiesto dove stessimo andando. Le ho detto che era una sorpresa, sperando che lo fosse davvero e che non ci fosse già stata ogni anno il giorno del suo compleanno. Siamo arrivati in Corso Venezia. Per un attimo ho pensato che se al posto della strada ci fosse stata l'acqua, le case sul fianco ci sarebbero state una meraviglia, con i giardini di fronte, il planisfero, il museo di storia naturale, che quasi sembrerebbe davvero di essere a Venezia. Ho parcheggiato la macchina proprio davanti al planisfero. Abbiamo attraversato la strada che era deserta. Siamo passati sotto ad un arco con il soffitto a cassettoni, che se non alzi la testa non lo vedi. E mi sono ricordato che devo farlo più spesso, di alzare la testa e guardare le cose che sono in alto. Siamo spuntati in una stradina silenziosissima e poi siamo sbucati in una piazzetta che è intitolata a Eleonora Duse. Lì ho dato fondo a tutte le mie reminiscenze teatrali e ho raccontato che Eleonora Duse è considerata la più grande attrice italiana di tutti i tempi. E per dimostrarlo si dice che lei fosse in grado di arrossire quando il copione lo richiedeva. Poi è diventata famosa anche grazie al fidanzamento con D'Annunzio, di cui si dice che avesse inventato un marchingegno con cui lui si lanciava su di lei a gambe aperte, tipo dall'armadio al letto, però questo era meno importante. Lì però per un attimo ho temuto di aver infranto il velo di romanticismo della serata, ma Natalie non mi ha deluso ed è scoppiata a ridere. L'atmosfera in piazzetta era meravigliosa, silenziosa, con una aiuola in cui al centro fioriscono centinaia di rose bianche, che non riesco mai a capire come facciano a non morire per il gelo. Prima di portarla qui avevo ovviamente fatto una piccola ricerca su Google e mentre passeggiavamo sul marciapiede le raccontavo che quella zona lì è chiamata il quadrilatero del silenzio, che si chiama così perché sta dall'altra parte, alla parte opposta rispetto al quadrilatero della moda. E perché anche se si trova nel centro di Milano, il silenzio sembra quello di un paese di campagna. Qui praticamente non c'è un negozio e come ci sia silenzio proprio non ce lo si spiega. Dopo una camminata di qualche minuto io mi sono fermato davanti ad una casa. Più che una casa sembrava un castello, a dire la verità. Un castello di pietra scura con inserti in oro, grate alle finestre, draghi, leoni e un ingresso tutto d'oro con colonne mosaici. Quando mi sono fermato l'ho guardata e ho capito che lei aveva capito. Solo che in mezzo a tutte queste epifanie di comprensione ho anche capito perché amavo quella persona. Per il fatto che nel suo sorriso c'era tutta una frase, tutta un'intenzione che mi ringraziava per averla portata lì dove suo nonno era passato per sbaglio il giorno in cui lei era nata, che aveva visto gli uccelli all'interno del giardino e che aveva scritto una lettera a sua madre. Mi ringraziava per averla portata lì proprio il giorno del suo compleanno, anche se c'era già stata, ovviamente, più volte nell'arco della sua vita, ma che era felice che io avessi deciso di portarla lì. Ecco che cosa c'era nel suo sorriso, o almeno ecco che cosa io ci ho letto. Abbiamo raggiunto il cancello e abbiamo sbirciato verso il laghetto. All'interno c'erano 23 fenicotteri rosa. I più dormivano. Alcuni passeggiavano nell'acqua, uno si torturava un'ala con il becco e uno guardava verso il cancello. Ci guardava con l'aria imperscrutabile che hanno gli animali, che non capisci mai che cosa gli passi per la testa, se c'è qualcosa che gli passa per la testa. Che poi magari quello che pensano è solo, beh, che hai da guardare? E mentre lui ci guardava e noi lo guardavamo, le ho augurato buon compleanno. Lei mi ha baciato e poi ha citato la lettera di Vincenzo. Perché ogni tanto, in mezzo al niente, spuntano piccole oasi di bellezza. Il 21 di dicembre festeggio il giorno più sfigato dell'anno. Resto in casa e non faccio assolutamente niente. In ordine, negli anni mi è successo tutto questo. Mi ha lasciato il primo amore, incidente di mia mamma, macchina rubata, sono caduto, litigato con il mio migliore amico. Quindi per festeggiare, lui non fa niente. 800240024 349-238-6666. La prima domenica di maggio, da 10 anni, faccio gratis l'istruttore di tiro con l'arco a Milano, Parco Teramo. No, sarà la Parco di Trenno. Esiste un Parco di Teramo a Milano, non credo. E comunque non capisco cosa festeggi esattamente la prima domenica di maggio. Ogni Natale mia nonna ha 90 anni, prepara con le sue mani oltre 600 tortellini fantastici e il brodo di cappone. Però ce n'era uno. Ecco qua. Il giorno del mio compleanno, 4 marzo, vado sempre, proprio sempre, al mare con il costume intero e faccio il bagno. L'anno scorso diluviava e si gelava e dopo il bagno, a Varigotti, in Liguria, mio marito mi aspettava in macchina con una coperta. Tu pensa a quest'uomo. Com'è che mi viene sempre in mente il marito? Ho preso la bronchite, ma quest'anno, il 4 marzo, è un venerdì e tornerò al mare. In fondo sono nata sotto il segno dei pesci, va bene. Il fatto che il 4 marzo sia venerdì è fondamentale, non l'ho capito, Carmen. Comunque, va bene. Il 4 marzo tutti a Varigotti a fare il bagno. Poi mi è arrivato un messaggio, oggi. Era un messaggio su un profilo Facebook, quello di prima, che si lamentano perché lo cito sempre. È un messaggio di Costanza, che mi dice: io il 27 di gennaio tutti gli anni ricorre la giornata della memoria e io e una mia amica lo celebriamo guardando Morte a Venezia di Visconti. Pronto, Costanza? Pronto. Ciao, buongiorno. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Sei un po' agitata, Costanza? Sì. Ok, sì, fai un bel... Non ho sentito il programma finora, però... Come non hai sentito il programma? Cosa stavi facendo esattamente? No, perché praticamente oggi la radio non funzionava più. Ti giustifica, non ti preoccupare. Costanza, tanto guarda, siamo a quello che mi hai scritto oggi. Sì. Vorrei solo capire come si coniugano le due cose. Cioè, il fatto che il 27 gennaio è la giornata della memoria che ricorda l'Olocausto e tu e la tua amica guardate Morte a Venezia di Visconti. No, beh, diciamo che la cosa era nata in realtà da una cosa del liceo, perché inizialmente non c'entravano le due cose. Semplicemente abbiamo visto questo film insieme la prima volta il 27 di gennaio. Uh-huh. E poi nulla, praticamente ci è piaciuto un parecchio e ogni anno ci ritroviamo o a casa sua o a casa mia e lo rivediamo. Cioè, quindi quante volte l'avrete rivisto in questi anni? Dunque risale alla terza del liceo, per cui sono 4-5 anni. Ok. Non è troppo... Non è troppo. Beh, però l'intenzione è quella di andare avanti, immagino. Sì, infatti mi chiedo se fra 20 anni ci troveremo ancora per. Senti, cos'è che ti piace, che vi piace esattamente così tanto di Morte a Venezia? Beh, allora, diciamo una serie di cose. Inizialmente era seria, nel senso ci piaceva il concetto espresso da Thomas sì. Mann. Dell'arte, dell'artista. Ah, perché voi siete partite dal libro, ovviamente, poi sì. Siete arrivate solo al film. Dopodiché è diventata una cosa un po' comica, perché a parte il fatto che la prima volta che l'abbiamo visto il film era in tedesco, perché io ce l'avevo in tedesco, e quindi era un po' complicato da capire. Ok, senti, Costanza, tu mi dici che cosa fai nella vita? Io? Sì. Ah, sì, adesso sono all'università. E cosa studi? Studio economia, economics and management, a dire la verità. Scusami, non ho capito. È un corso di laurea in inglese. Ah, ok, quindi lo studi in inglese? Sì, a Venezia. Però prima facevo un'altra cosa, solo che ho cambiato. Ok, quindi adesso hai... quanti anni hai adesso, Costanza? 21, 22? Ne ho 20. Ne hai 20, studi sì. Economics and Management e ti piace Morte a Venezia. Mi dici solo che cosa ti ha cambiato nella tua vita quotidiana Morte a Venezia, che tu rivedi tutti i giorni, tutti gli anni, il 27 di gennaio? Beh, a parte il fatto che dopo la cosa è andata a finire sulla figura di Taggiu, per quello che ti dicevo che era un po' comica. Sulla, scusami, sulla? La figura di Taggiu sarebbe il protagonista di questo film. Ah, ok. E anche del libro, questo ragazzino, no? E a noi faceva un po' ridere inizialmente, perché era una figura un po'... bisognerebbe vedere... Costanza, scusami una cosa, poi ti saluto perché dovrà la linea alla borsa. Sì. Tu e la tua amica avete uno straccio di fidanzato oppure passate le serate in questo modo? No, lei ha il fidanzato, io no, però va bene. Costanza, ti ringrazio molto. Allora, insomma, facci sapere come va il 27 di gennaio, se è cambiato qualcosa, se magari il finale è diverso. Lei ha un esame adesso di biologia, per cui non so come faremo, però. Costanza, ti ringrazio molto. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Sentiamo la borsa e poi 80024 0024, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Della foto di oggi capisco giusto che siamo in una cucina, però è un primissimo piano, è molto stretta. Quello che si vede sono dei piccoli dischi fatti di qualcosa tipo farina, acqua, che poi un po' tutto è fatto di farina e acqua, più o meno la base dei cibi, e comunque belli piatti su una base e uno di quei... non saprei definirlo, uno di quegli stantuffi che servono per spruzzare di solito la crema pasticcera, in questo caso credo qualcosa di salato. Insomma, siamo sicuramente in una cucina. Lucchinelli Alessandro, 37 anni. Dinanzi ad uno dei miei attrezzi da lavoro, lo chinois, sono chef ed una pausa dallo studio di un nuovo piatto, i tortellini di mare, insieme ai miei colleghi ci siamo lasciati andare a qualche scatto per immortalare alcuni momenti della mia giornata. Questo sono io e io sono qui. Eccolo lì, lo chinois. Alessandro, scusa se avevo perso il nome tecnico di uno di questi strumenti che da cucina. La foto è sempre sul sito radio24.it insieme alle canzoni del giorno, visto che molti me le chiedono. Intanto qualche dettaglio, l'ascoltatore di prima che mi diceva che la prima domenica di ogni mese di maggio dà lezione di tiro con l'arco gratis, è perché mi scrive: si festeggia la giornata ecologica ed è proprio il parco di Teramo a Milano, che non ho idea di dove sia. E poi Chicco mi scrive: non ho mai visto Morta a Venezia e il 27 gennaio sono libero, posso venirla a vedere dalla tipa di prima? Per la tipa di prima si chiama Costanza, e Chicco, Costanza, sappi che Chicco si firma con le K, giusto per sapere. Intanto mi dicono, credo da parte di Laura Faggin, sempre prontissima, che Parco Teramo è dalla parte della zona Barona. E poi Matteo, ricordati di avere questo sguardo su di lei, te credo sia nata lì, anche dopo diversi anni. Mio marito lo ha mantenuto su di me. Ci siamo sposati il 2 febbraio del 2002. Elena, però è il 2 febbraio del 2002. Cioè, se tu mi avessi il 2 febbraio del 1942, potevo stupirmi. Così facciamo che ci sentiamo tra una trentina d'anni. E poi ci è arrivato questo messaggio. Dove sono? Dopo 6-7... l'ho perso. Perfetto, eccolo qua, Angelo festeggia da anni la Pasquetta, ne ha saltato qualcuna mi dice, però festeggia la Pasquetta andando a giocare tutti gli anni con gli amici a mini golf. Pronto Angelo? Ehi, ciao Matteo. Ciao, so che tu stai lavorando e quindi non voglio rubarti troppo tempo, dimmi, no, che lavoro fai solo? Faccio un impiegato in un'azienda, una grande azienda multinazionale. Perfetto, che produce che cosa? Farmaci. Ok, l'hai detto sottovoce, farmaci? Farmaci. Va bene. Sì, farmaci veri. Allora, dai, non ti faccio perdere tempo. No, non te lo faccio perdere io. Vai, raccontami, Angelo. Però allora, parla piano, mica che ti sentono in ufficio. Sì, no. Allora, sono uscito per anni, nato per caso, tipo, sì. Ci siamo andati un anno per caso, poi l'anno dopo per caso ancora, ci siamo accorti che era 2-3 anni che a Pasquetta andavamo a giocare a minigolf e l'abbiamo istituzionalizzato, quindi... Per 6-7 anni siamo andati a giocare a mini golf. Angelo, scusami un secondo. Innanzitutto, di dove sei? Perché non riesco a percepire. Como, Lecco? Varese, perdonami, ok. Non ci sono andato tanto lontano. In provincia di Varese. E poi tu sai che il mini golf, diciamo, di solito nell'immaginario comune, è una delle cose più da sfigati che ci sono. Possiamo dircelo. Sì, ma è da sfigatissimo. Ah, ok. Quindi lo facevate con consapevolezza. Ma nasceva dal fatto che spesso il bar era chiuso oppure apriva più tardi dove ci trovavamo. Allora cosa facevi? Dove andiamo? Di solito i mini golf dalle nostre parti, quindi andavamo a Turbigo o a Canegrano. Senti, dimmi, Angelo, dimmi esattamente di qual è il nome del tuo paese in provincia di Varese. Io abito adesso a Busto Arsizio, ma sono di Magenta. Ah, ok. Io abito a Busto da quando mi sono sposato, da 3 anni. Quanti anni c'hai? 37. Senti, giusto, a proposito, visto che è arrivato un messaggio che mi chiedeva di mantenere lo sguardo fresco sulla mia fidanzata, tu hai ancora uno sguardo fresco su tua moglie dopo 4 anni di matrimonio oppure... Sì. Certo, se la porti al mini golf, sta povera donna, veniva, non so quanto sia. Veniva anche lei. Siamo andati anche con la bambina. Benissimo. Una bambina, addirittura. Una bambina arriva. La bambina è un disastro per quel bambino al mini golf, perché ti fermano tutte le palline. Angelo, allora è da lì che abbiamo... ti faccio tornare al lavoro perché ho paura che ti licenzino, però ti ringrazio molto. Ma senti, lasciami un secondo, fammi salutare il mio capo che sta andando in Svizzera. Michele, vai piano che fai 20 con un litro. Non avevamo mai fatto questa cosa qua. Angelo, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, un grande ciao. Che evidentemente c'era del non detto tra lui e il capo, fai 20 con un litro. Andiamo a Verona da Danny. Pronto, Danny? Pronto, ciao Matteo. Ciao, senti, il tuo nome è un diminutivo o tu ti chiami proprio Danny? No, mi chiamo più Danny, D-A-N-Y. Ah, ok, solo perché Laura Faggin me l'ha scritta D-E-N-N-N-I, però questo ci interessa di meno. Raccontami tu che cosa fai per l'anniversario di matrimonio. Allora, ormai sono 6 anni che facciamo aglio, olio, peperoncino e champagne. Aspetta, tu fai gli spaghetti, aglio, olio, peperoncino e bevete champagne. Spaghetti. Assolutamente. Perché è successo che facevamo un trasloco e non avevamo niente in casa il giorno dell'anniversario. Allora ci siamo guardati con tutti gli scatoloni attorno e abbiamo detto: cosa facciamo? Festeggiamo lo stesso. E in frigo c'era aglio, olio ho messo sugli spaghetti e c'è una bottiglia di champagne fresca. E quindi da lì in poi è diventata la tradizione. Da quanti anni hai detto, Danny? Dal 2005. E stavo per chiederti per quanto ancora, però effettivamente mi sembra la domanda sbagliata. Volevamo smettere, l'anno scorso abbiamo fatto, volevamo fare i fighi, mi ha detto andiamo al ristorante, tutti belli in gingheri, eccetera, eccetera. Tengo la fine gli occhi con lo sguardo fresco, come dicevi prima. E abbiamo detto domani rifacciamo gli spaghetti con lo champagne. Danny, grazie a te e al tuo sguardo fresco. Buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Prima è arrivato questo messaggio. Io non festeggio l'anniversario perché succede sempre qualcosa che non lo permette. Sono 12 anni che va così. Comincio a pensare che sia giusto. Pronto, Marina? Ciao, Matteo. Ciao. Che cosa succede esattamente da 12 anni a questa parte? Che giorno è innanzitutto il giorno dell'anniversario? Il giorno è il 13 settembre. E sì, sono 12 anni, 13 con questo, che il 13 settembre succede sempre qualcosa, ma non cose gravi, oddio, sempre magari incontri con i ex compagni di scuola, dai che ci vediamo, dai che ci si vede, il 13 settembre. Oppure trasferta per lavoro in Cina, il 13 settembre. Dimmi una cosa, sarà successa una cosa grave anche, no? No, niente, mai una gamba, niente. Sempre uno era da una parte e uno dall'altra il 13 settembre, matematicamente. Senti, a questo punto tu hai la sensazione che questo sia diventato il vostro modo per festeggiare, mi sembra di capire. Assolutamente sì, infatti tutte le volte che programmiamo qualcosa, come festeggiamo quest'anno? Ma inutile pensarci, tanto succederà qualcosa, è puntualmente, è vero. Da quanti anni siete sposati, Marina? No, non siamo sposati, siamo, oddio, è successo, è cominciato quando avevamo 17 anni e adesso che ne abbiamo 30 e lui 32, stiamo mettendo casa, ma non siamo ancora sposati. Non siete ancora sposati dopo no. di 13 anni? Dopo 13 anni? Sì. E state andando a vivere insieme dopo 13 anni o avete già vissuto insieme? No, andiamo a vivere insieme questa primavera. Ma davvero, Marina? Sì. Cioè, stai parlando seriamente? Sto parlando seriamente. Senti, e com'è che si decide di andare a vivere insieme dopo 13 anni di fidanzamento? Cioè, o meglio, la domanda dovrebbe essere: perché non si va prima e perché lo si decide solo dopo 13 anni? Beh, guarda, da dirti la verità, esclusivamente questioni di lavoro del mio ragazzo che è spesso in giro, poi un po' di questioni economiche. Cioè, e tu che cosa fai, Marina, nella vita? No, io insegno informatica, per cui sono un pochettino più stabile a casa. Ok, senti, Marina, è in giro. Facciamo così, la prima volta che festeggerete l'anniversario da conviventi, ci sentiamo e mi dici se è successo qualcosa. Ma sicuramente saremo uno di qui e l'altro dall'altra parte, sicuro. Marina, sicuro. Grazie mille, buona giornata, in bocca al lupo soprattutto. Crepi, ciao Matteo. Ciao, grazie. Ogni anno io, mia figlia e mio marito festeggiamo il compleanno di mio marito andando a Viareggio a mangiare il pesce al solito ristorante. Questo ormai è diventato quasi un rito e non riuscirei a immaginare di passare il 4 gennaio in modo diverso. Daniela, vorrei dedicare invece gli ultimi minuti a delle mail che mi sono arrivate. Visto che spesso vi chiedo di mandarmi, se vi capita, un piccolo episodio della vostra vita, un racconto che dica di voi attraverso un episodio che vi è successo veramente, e di scrivermelo in 5, 10, 15, 20 righe. Io sono qui, @radio24.it. Ieri mi è arrivata una mail di un'ascoltatrice che mi diceva: guarda, io lo scriverei, ma ho paura di delle cose banali o delle cose che ha già detto qualcuno. E allora vorrei dedicarle questo piccolo pezzo. Niente è originale. Rubate da qualsiasi cosa che possa creare ispirazione o che nutra la vostra immaginazione. Divorate vecchi film, nuovi film, musica, libri, quadri, fotografie, poesie, sogni, conversazioni colte per caso. Architetture, ponti, segnali stradali, piante, nuvole, corpi fatti d'acqua, di luce ed ombra. Tra tutte le cose che ruberete, prenderete solo quelle che parlano direttamente alla vostra anima. Se agirete in questo modo, il vostro lavoro sarà autentico. L'autenticità non è valutabile, l'originalità non esiste e non vi preoccupate di nascondere il vostro furto, anzi, festeggiatelo se vi piace. E comunque sia, ricordate sempre le parole di Jean-Luc Godard che diceva: non è importante da dove prendi le cose, ma dove le porti. Questo è un pezzo, è una sorta di manifesto scritto da Jim Jarmusch ed è dedicato a tutti quelli che vorrebbero scrivere qualcosa anche a questo programma, ma non trovano il coraggio per farlo. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato oggi, ringrazio Roberto Scaltritti, Laura Faggin, Tiziano Bonini, ma anche Stefano e Franco D'Andrea che sono dall'altra parte del vetro. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?